everybody's on a zig knatschen, yeah, batschen. Happy morning! Es ist so heiß in der Wohnung und wir zelten auf dem Balkon, yeah. Na, na, na, na, na, na. Michelle war gestern auf Party, Party. Und jetzt hat sie einen Kater. Oh, oh. Das Mädel hat so einen Schädel und jetzt hängt sie voll over. Oh, oh. Über Nacht ist eine Wolke geplatzt und die Welt, sie steht unter Wasser. Oh, oh. Trink einen Schluck von dem Tautropfensaft und erwach aus deinem Koma. Guten Morgen, Michelle. Hey. Draußen ist es schon hell. Hält dich aus dem Schlafsack. Komm raus, baby. Guten Morgen, Michelle. Good morning. Komm aus dem Zelt. Yes. Und wir feiern den Tag. Krabbel raus. Es ist der Happy Morning Song. Komm alle raus. Happy Morning Song. Guten Morgen. Es ist der Happy Morning Song. Happy Morning Song. Und der Tag kann kommen. Und der Tag kann kommen. Michelle kriegt aus ihrem Zelt die Prinzessin Blinzel. Regelt und schreckt sich, das Kätzchen fühlt sich schrecklich. Sie springt in den See, jetzt ist alles okay. Und weg ist das Kopfweh, endlich fühlt sich happy wie der Morgensong. Und kinky reggae, chili extra strong. Sie fühlt sich yummy wie ein Lustbonbon. Jetzt ist ihr Red Day und der Tag kann kommen, yeah. Schau mal, da kommt Michelle, Rebel, Vici und Fidel. Casso nur weiblich, das nächste Level. Sie frühstückt noch schnell und geht auf Festival, yeah. Die Vibes sind irate. Guten Morgen, Michelle. Morgen ist es schon hell, yeah. Dich aus dem Schlafsack. Raus, Michelle. Guten Morgen, Michelle. Komm aus dem Zelt und wir feiern den Tag. Sonne knallt. Es ist der Happy Morning Song. Guten Morgen. Happy Morning Song. Guten Morgen. Es ist der Happy Morning Song. Happy Morning Song. Da kann kommen. Da kann kommen. Na na na na na. Happy morning song. Happy morning. This is the happy morning song. Happy morning. Und der Tag kann kommen, Tag kann kommen. Cosa ci siamo dimenticati di dire nella puntata della settimana scorsa, Chiara? Ah, ci siamo dimenticati di parlare del ruolo dell'artista. Del ruolo dell'artista, di spiegare che cos'è un artista di brand. Ah, ecco, perché questa cosa qua è abbastanza è rimasta un po' così. Che cos'è un artista di brand? L'artista di brand è l'artista tipo Damien Hirst, Jeff Koons, generalmente maschio, però anche, certo. Tracy Emin è un artista di brand. Mm. Mm-hmm. E, beh, loro sono artisti di brand anni 90. Mm. E, cioè sono quelli che hanno costruito la propria fama diventando una specie di logo di se stessi, come, certo, potrebbe essere la Nike per i vestiti, per l'abbigliamento sportivo. O Prada per, diciamo. Beh, anche l'Abramovic è un artista di brand. Anche l'Abramovic è un artista di brand. Beh, e questo libro sostiene che tutti gli artisti affermati sono artisti di brand. Sì, io non sono tanto d'accordo, ma non lo so. Però questo quel libro poi è del 2009. Infatti. Era vero, nel 2009 era vero. Un'altra cosa interessante che non abbiamo detto è che io, perché volevo fare anche un po' di divulgazione sull'arte, no? Ah, e quindi, ecco, brava. Mi ero preparata uno schemino, avevo cominciato a preparare uno schemino con tutti i periodi storici e volevo dare una corrente per ogni decennio, no? Dire negli anni 60, la pop art negli anni 70, l'arte concettuale. Mi ero guardata questi schemini, poi a un certo punto mi è venuto il dubbio, ho detto dai, andiamo a controllare su Wikipedia magari per controllare che il mio schemino sia giusto, ed è venuto fuori una lista con dei nomi di correnti che io non avevo mai neanche sentito nominare. Adesso se metti uno stacchetto musicale li vado a prendere, te ne leggo qualcuno che sono belli. Corso spaziale. Ma Wikipedia Italia sempre o inglese? Sì, alla voce arte contemporanea. Ah, ecco, no, sai perché, perché io mi sono accorto che per esempio l'altro giorno volevo fare una lezione, parlare di Daniel Birnbaum, quello che aveva curato Fare Mondi, sì, e non c'è la voce di Wikipedia su Daniel Birnbaum in Italia, c'è solo in inglese. Ma certo, infatti c'è anche... No, Wikipedia anche, Italia è veramente tristissimo. Anche Princess Nokia, la seconda colonna sonora della settimana scorsa, su Wikipedia c'è solo in inglese, non c'è la pagina in italiano, mentre invece su Linton Quincy Johnson, che è un maschio, c'è anche in italiano. È vero, è certo. No, ma a parte che comunque per la musica si è messi bene, ma per l'arte si è messi malissimo. Per l'arte si è messi malissimo. Allora. Per esempio, allora, negli anni 50, tu cosa avresti detto degli anni 50, Stefano? Con non lo so, ho buttato l'occhio su Cobra, no, e mi è venuto in mente Cobra. Cobra, però, d'accordo. Sì, negli anni 50, cosa c'era? Informale. Beh, ma forse l'espressionismo astratto. Io avrei detto l'espressionismo astratto, forse, volendo proprio individuare una cosa. Invece, per esempio, 50 c'è anche per esempio viene fuori questa cosa che mi ha sorpreso, che è la stampa lenticolare. Io tra l'altro la stampa lenticolare l'ho anche utilizzata in alcuni come miei movimento lavori. Stampa lenticolare, c'è scritto stampa lenticolare, oppure c'è color field. Ah, color field, giusto. Antipodeans, che cosa sarà? Mai antipodisti. Gli antipodisti cosa sono? L'arte sovietica non conformista? Ok. Suona bene l'arte suona sovietica. Bene. Secondo me dovremmo fare un revival di arte sovietica non conformista. Sì. Io e te. Ma sì, sono d'accordo. Dove eravamo? Agli anni 60? Eravamo agli anni 60, quindi il popolo, la pop art. Ah, ho capito. Questi sono indizi per gli ascoltatori che potranno ricomporre, riassemblare tutta la trasmissione un po' con questo atteggiamento saltellando dadaista. Tra passato e futuro. Dadaista, quindi siamo negli anni... negli anni 20, scusa. Allora, agli anni 60, la... La pop art. Pop art, benissimo. Arte no, non c'è solo la pop art, ma c'è anche BMPT, che sembra il nome di una banca. Sì, non saprei cosa sia. BMPT, e poi c'è l'arte psicadelica. L'arte ciccana. C'è hard edge painting. Che cos'è hard edge painting? Ah, ma quando, è quando dipingi, è quando dipingi con una punta secca, molto secca. Op art lo sapevo, l'avevo già sentito. Mono ha negli anni 60, invece negli anni 70 arte concettuale, grazie. Arte concettuale, e invece c'è anche lowbrow. Lowbrow, che sarebbe lowbrow, non lo sarebbe, so. Sarebbe sopracciglia bassa. Io presumo e che questo sia una pittorica Warli. Parliamo della rinascita pittorica Warli. Questo io presumo che questo sia una traduzione diretta da Wikipedia americano, sì. Con anche un po' di così libro d'arte. Ecco, anni 70, libro d'arte invece è sbagliato, perché il libro d'arte nasce ufficialmente nel 63 con con i 12 Gasoline Station. Ma anche l'arte povera nasce negli anni 60. Sì, ma... Beh, l'arte povera magari è discutibile forse questa classificazione, però mi colpiva proprio la pletora di movimenti proprio mai sentiti nominare. Comunque io poi volevo anche passare, facciamo un salto in avanti, agli anni 2000. Passiamo agli anni 2000. Come se non ci fossero gli anni 80. No, gli anni 80, cosa mettiamo? Ma sì, c'è Marco Cingolani. Cioè in Italia c'è la Transavanguardia. La Transavanguardia. Ma giusto. Nel mondo? Perché nel mondo, la videoarte. Nel mondo, negli anni 80, la videoarte, in realtà negli anni 60 anche quella. Nasce la performance. Qua mette performance art, graffitismo. Graffitismo. Ci sta il graffiti. Io forse nel mio schema credo di aver messo il graffitismo. Bene, anni 90 lo sappiamo, Young British Artist, tutto il libro che stiamo leggendo ormai da 3 puntate ha a che vedere con questo, nasce da lì. Ed ecco che arriviamo agli anni 2000 e troviamo per esempio il metamodernismo, che sono i buchi che fanno nelle riviste quelli che copiano gli altri. Ci sono già 2 o 3 artisti che anche a livello locale che fanno questo metamodernismo, come no? Sì, scusa, sì. Mi sono distratto, stavo guardando. Ti sei distratto sul più bello su Instagram. Apposta. Sì. Sì, perché. Appunto. E poi c'è chi altro c'è? L'eccessivismo. No. L'eccessivismo. Sei proprio un eccessivista. È Pino Foresta. Manca quasi lo stacco lanale. Il nascondismo. No, scusa, negli anni. Negli anni 2000 non c'era il neofuturista, che quello che aveva messo le palline nella fontana. No, il sangue nella fontana di Trevi. Ah, è vero. E quello che cos'era? Un neofuturista. Uno pseudorealista? Idea art è l'arte intelligente. No, Idea art, non so. Io arte virtuale. Non so, non mi riesco a. Arte videoludica. Lo stucchevolismo esiste. Lo stucchismo. No, il VJing è vero. Anni 2000 il VJing. Gli artisti che facevano i DJ con le cose visive dietro. Ah, a modi per la internazionale 2000 prima. Sì, effettivamente un po' anni 90 quello. È un po' anni 90, sono un po' la classificazione non c'è. Comunque, visto che poi agli anni 2000 si ferma, io per il nuovo insieme, anzi noi, io e Ivana Spinelli, siccome ormai siamo negli anni 10, 2010, possiamo già, abbondanti, siamo alla fine degli anni 10, esatto. Quindi e non è successo un cazzo. Si può anche cominciare a scrivere la nostra piccola storia, anzi la nostra grande storia, per il collezionista di domani, il giovane collezionista di oggi che sarà il futuro grande collezionista di domani. Okay. Andando in fiera, su cosa consigliamo noi di Raggio di Città? Sì. Cosa consigliamo di acquistare per poter rivalutare veramente a cifre stellari il proprio acquisto? Io ho una risposta. Norese. Che costa solo 180 euro. Io però non sono d'accordo, con tutto il rispetto, nel senso che l'Orese è a prescindere ed è transgenico, transgenderico, è comunque un amico. Ma in termini più generali, volendo anche lasciare un po' più ampia scelta, no? Sì, che no, ognuno infatti, non debba comprate quello. Del potenzismo. Comprate l'arte delle donne. Perché l'unica cosa che si è fatta notare allora, in niente questi norese, 10 anni... niente norese. Comprate Chiara Mu. Va bene, Chiara Mu. Una qualsiasi donna che di cui lavoro vi possa risuonare un minimo... No, è che Chiara Mu suona bene, cioè uno si ricorda un nome come Chiara Mu. Sì, Chiara Mu, va bene, comprate Chiara Mu. Poi le telefoni che ci dà una percentuale sì. Certo. Ok. Giusto, l'arte delle donne. L'arte e chi delle ci donne sarà perché, in arte fiera di arte delle donne? Ivana Spinelli ci sarà? No, e non ci sarà quest'anno. Beh, sicuramente perché... Chiara Pergola ci sarà? Quest'anno non ci sarà, però si può poi contattare l'artista eventualmente. Su Facebook? Siamo proprio artisti di brand. No, qua e poi tu puoi scrivere, dallo studio ti faccio uno sconto notevole. Un artista femminista che sarà presente in fiera è Daniela Comani, penso. Daniela sì. Comani. In genere c'è. No, quest'anno non c'è. Quest'anno per protesta non c'è. Dici che la Stefania Galegati Shines è in fiera? Non lo so. Chiediamo. Quest'anno no. Quest'anno la chiamiamo. E allora, piccolo, nuovo, giovane collezionista, futuro grande collezionista, vecchio grande collezionista medio di domani, ecco la prima cosa che devi sapere, che l'arte che vale tanto domani non la trovi mai oggi. Non in questa fiera, quest'anno questa no. Fiera. L'angolo della menzione. Ed eccoci naturalmente all'angolo della menzione. Siamo nella settimana precedente quella di Arte Fiera e cominciano ad inaugurare un po' di mostre. Domani alle 18.30 inaugura Con te ovunque, avventura spaziale in due atti di Petri Paselli ed Emilia Maria Chiara Petri presso la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno. E su www.coxospaziale.blogspot.com troverete un link che vi racconterà tutto di questa mostra. Lunedì, probabilmente lunedì, visto che il Mambo ha scritto martedì 28 gennaio ore 18 per Leandro Ehrlich Collection de Nuages a cura di Maura Pozzati, le nuvole di Leandro Ehrlich in vetrine come che sembrano provenire da un gabinetto di curiosità. Questo è all'oratorio di San Filippo Neri in via Manzoni 5. Dopodiché dalle 11 di martedì 29 gennaio a Palazzo Bentivoglio, Jacopo Benassi, Bologna Portraits, a cura di Antonio Grulli, scusate. E questa è in via del Borgo di San Pietro numero 1 e troverete tutto su www.palazzobentivoglio.org. Mentre invece sempre martedì alle 18.30 inaugura la mostra tradizionale ormai curata da Simone Menegoi alla Banca di Bologna, Palazzo De Toschi, di Gert, quest'anno c'è Gert Goiris, Terraforming Fantasies, e di nuovo sul nostro sito troverete tutto su questa mostra. E invece dopodiché si passa a venerdì prossimo, che insieme a Coxo Spaziale inaugurano un bel po' di robe, e tra cui la mostra Fino alla fine di Guido Segni a cura di Alessandra Ioale e Marco Mancuso presso la sede di Adiacenze. Inoltre anche inaugura Gabriele Basilico, Alberto Garutti, Ugo La Pietra, Corrado Levi, Alessandro Mendini in una grande collettiva a cura di Giacinto Di Pietrantonio in una mostra chiamata Poliarte, l'arte delle arti, e questa è la Galleria Enrico Astuni in via Barozzi 3 a Bologna. Dopodiché vi lasciamo a www.coxospaziale.blogspot.com, dove troverete il link a Art City 2019 con il programma completo. Lo trovate naturalmente anche nel sito del Mambo, troverete il link con tutte le inaugurazioni, che invece la maggior parte delle gallerie bolognesi inaugura sabato 2 febbraio, dopo Arte Fiera, che invece naturalmente inaugura giovedì 31. Se avete il biglietto andate, se non avete il biglietto non andate, perché all'inaugurazione ci vuole il VIP pass. E questo era l'angolo della menzione. Coxo Spaziale! Ieri ho incontrato la mia formica. Mi ha detto che sono pazzo. Io, con occhiaie profonde e un principio, intossicazione. Io non ricordo che occhi avevi, io non ricordo che occhi avevi l'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho lasciato, ma io sono stato. Io sono stato, ma io sono stato, io sono stato dove tu mai. Dolce amore del Bahia, dolce amore del Bahia, io con le mani di giunco e la mia verginità. Io non ricordo che occhi avevi, io non ricordo che occhi avevi l'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho bloccato, ma io sono stato. Io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato dove tu mai. Ieri ho ammazzato la mia formica, diceva che ero pazzo. Io, pazzo forse per gioco, ma per niente e per nessuno. Io non ricordo che occhi avevi, Io non ricordo che occhi avevi l'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho incastrato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato dove tu mai. Si crea un artista di brand, cioè stiamo su questo, l'artista sì. Di brand, come si crea? Il gallerista che ovviamente è complice in questa operazione di creazione del brand, no? Il gallerista di brand crea l'artista di brand. Per riuscire a far sì che l'artista che di suo magari vorrebbe dipingere, pensare, riflettere, esprimere qualche cosa sul mondo, no? Invece deve diventare di brand, quindi bisogna che a un certo punto sia anche un po' ripetitivo, che si faccia riconoscere, che segua le leggi del mercato. Come fa per indurre questo istinto che molti artisti di base non avrebbero? Inizia a viziarlo dandogli un sacco di soldi, no? Esponendosi sui debiti in modo che l'artista acquisti delle abitudini costose, dispendiose, delle quali diventa schiavo. Dopodiché smette di pagarlo. Esatto, dopodiché smette di pagarlo e lo tiene sotto ricatto. E questo un po' si aggancia a quel discorso che facevamo prima, che tutti gli artisti sono un po', indipendentemente dalla posizione che occupano all'interno del sistema, sono sotto ricatto. Ma come tu mi insegni, tutti i lavoratori sono sotto ricatto. Quindi noi siamo dalla parte del lavoro, dei ricattati. Siamo dalla parte dei lavoratori. Il gallerista è un manipolatore fondamentalmente. Sì. Gallerista. Beh, il gallerista italiano è abbastanza caso un manipolatore. Adesso so che voi siete stati molto più fortunati di me, forse. Beh, semplicemente sì. Perché ho evitato completamente la categoria. Ma come? io non sono mai stata costretta ad essere un artista di brand. Okay. Tu sei il mio gallerista. No, ero il tuo gallerista. Il mio gallerista. A... Scusa se ho dimenticato questo passaggio. E che naturalmente ti ho manipolatissimo. Però non hai creato in me questo istinto, non mi hai viziato dandomi. No, è perché non avevo abbastanza fondi. Esatto. Secondo me appunto questo possono farlo delle gallerie grandi, altrimenti... Sì, no, ma infatti stiamo parlando del livello, il livello che può accedere al brand. In questo libro l'avevo già detto anche quando ero influencer, l'Italia proprio non esiste, non esiste. I galleristi italiani non esistono, ma neanche quelli che per noi sono dei guru assoluti, grossi. Niente, proprio, certo. Anzi, uno di cui non viene rivelato il nome è stato anche buggerato, perché praticamente ha acquistato un bacon per una cifra sproporzionata, perché non veniva da un collezionista di brand, perché le opere valgono a seconda di chi le possiede. Ah, certo. Questo lo sapevate, no? Sì. Quindi un bacon che viene da, che casa viene da mia, me, da casa mia, no, da casa mia va bene, perché io sono una collezionista di brand, perché io sono di brand per definizione, ma da casa tua non vale niente. Invece se viene da casa di Bertelli, no, anche perché poi sembra che girino un bel po' di bacon falsi, detto tra noi. Questo, c'è anche questo problema, però chi se ne frega, a me non interessa. Secondo me frega poco anche a bacon. Assolutamente, a bacon meno di tutti direi a questo punto. Gather down and end. Perché abbiamo approfondito, c'è questo focus sul brand. Adesso poi che ci sarà Arte Fiera, così gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, cioè uno andrà Gifo saprà nel dettaglio come osservare, il nostro ascoltatore saprà come osservare il fenomeno. Ho capito. Allora, la galleria di brand, che è quella che lancia l'artista di brand, no? Chiaro. È interessante. Viene spesso progettata per essere uno spazio non troppo amichevole verso coloro che stanno solo dando un'occhiata e dove i visitatori non si sentono a proprio agio. Parte della psicologia della galleria d'arte risiede nel suo arredamento. Spesso è senza finestre e si compone di stanze e pareti completamente bianche. Questo ambiente senza dettagli vuole rafforzare l'idea che quello che si sta guardando è l'arte e che le gallerie sono luoghi elitari, quindi l'arte non è per tutti. Ecco, questa cosa è un po' cambiata adesso, cioè dopo la crisi del 2008 è nata la figura del mediatore culturale, che fa sì che di fatto ti senti leggermente più a tuo agio, perché adesso quando vai alla P420 di pomeriggio, per dire, appena entri arriva uno che ti fa da mediatore culturale, che sì, ti vuole raccontare il lavoro anche se non lo vuoi sentire. Anche se non vuoi. Esatto. Questa è una novità post-crisi. Questo fa parte un po' di quel fenomeno che pare che sia molto sotto analisi anche in questi giorni, perché è uscito sotto psicanalisi in questi giorni, è un fenomeno generale. Ha scritto un articolone molto lungo che si riassume in quattro parole, poi Alessandro Baricco su Repubblica, di cui è poi scaturita tutta una pletora di argomentazioni sul fatto che le elite sono un po' in crisi come concetto, perché la gente, certo, si è un po' rotta, come dire, le ovaie. Correggo, no? Visto che l'altra volta, esatto, no, per le ascoltatrici di Non Una di Meno, mi correggo. E quindi questo risponde un po' a, come dire, al momento. Certo, sì. Adesso ci sono le gallerie del popolo. È di moda essere una galleria del popolo. È di moda essere una galleria. Speriamo che diventi di moda anche cominciare a vendere dei lavori a 100 euro. Speriamo di diventare tutti popolari a questo punto. Esatto. No? Tutti, pop. Si dovrebbe riformare un popolo prima di si fare le cose. Si dovrebbe riformare un popolo, esatto. Arte contemporanea. Chiara Pergola, siamo alla 257esima. Andiamo avanti direttamente. Basta. Mi tirano in pomodoro. Tutto il palinsesto per un anno. E se io ti chiedessi di descrivere il tuo lavoro in un minuto, ce la faresti? Forse in meno. Arte verbo visiva, poesia verbo visiva, lavoro molto con la scrittura, però non scrivendo su una pagina bianca, ma facendo vivere la scrittura all'interno di diversi medium e anche possibilmente nella città. Per cui dipingi. Forse l'unica cosa che non faccio è dipingere, però non mettiamo limiti, perché no, potrei anche un giorno dipingere qualche lettera. Comunque mi piacciono molto le lettere. Potresti insegnare tecniche grafiche speciali, in fondo. Ma non voglio rubarti il lavoro, quindi mi astengo. Ivana Spinelli, se io dovessi chiederti che cosa fai, che tipo di attività artistica fai in un minuto, tu che cosa mi risponderesti? Un'attività completamente inutile, che mi serve appunto per andare in studio tutti i giorni e capire qualcosa in più, diciamo, del mondo, che però è formalizzato in diversi modi, quindi dal disegno alla performance. Ma è un po' paradossale entrare in studio per capire quello che succede nel mondo, o sbaglio? Bravo. È interessante. Infatti, questo concetto. Molto di quello che imparo, diciamo, lo imparo per strada, dalle persone, chiaramente, dalle mentre esperienze. Vai, esatto. Okay. O quando non ci vado. Però diciamo che mi costringo ad andare in studio per tessere un po' le fila di quello che non capisco fuori. Ok, ma dunque lo studio diventa una sorta di involucro per te stessa, dove hai lo spazio, il tempo necessario, oppure... Temo di sì, vorrei che fosse anche qualcosa di diverso, però è anche un po' un rifugio. No, perché alcuni artisti hanno uno studio aperto con un sacco di... Cioè, penso a Andy Warhol e alla Factory, no? Che sì. Era aperta, passava un sacco di gente, lui aveva bisogno di stimoli che entravano in studio, mentre invece... Ma io ho avuto sempre... non è stata una scelta, diciamo che ho avuto sempre studi piccoli, quindi per esempio a Berlino era molto divertente, invitavo sempre ma stavamo in piedi praticamente. Okay. Quindi adesso a Bologna ci sto da poco e sono venute poche persone, diciamo, non ho avuto il tempo materiale. Però no, mi piace molto il momento del dialogo, di solito però invito, diciamo, quando ho finito qualcosa. Un percorso, okay. Un processo, sì. Quando c'è qualcosa finito, da quando vedere, quando mi sembra, certo, di aver dipanato qualcosa, ma solo perché appunto penso sia una cosa un po' animalesca, però proprio nel momento in cui sto... Sì, stai facendo ricerca. Bisogno di... Sì, sono proprio nella confusione, mm-hmm. No? Preferisco non aprire il discorso. Poi mentre in invece il collezionista vorrebbe essere una mosca nel tuo studio, vedere tutto quello che fai. Si può sempre quando... mettere una webcam. Io per esempio di recente nel mio studio vado in altalena. Ah, wow! È una bellissima cosa, è un'esperienza nuova, ho queste travi altissime e allora ho messo un'altalena con delle corde che mi hanno regalato da Speleo. Fantastico! Quindi pensavo di attaccare una webcam che riprende lo studio con questo moto circolare. Però effettivamente l'idea della webcam nello studio potrebbe essere una nicchia di mercato. Non lo so, però ci hanno pensato anche altri. Mi ricordo proprio a Bologna c'erano questi primi esperimenti con webcam. Ne aveva fatto Vaccari. Patrizio Roversi. Era stato Franco Vaccari che aveva fatto le webcam con lo studio, dopo negli anni 90. O anche Bruce Nauman che aveva messo... Sì, le telecamere, sì, di sorveglianza. Di notte. Belle. No, io in realtà penso che il collezionista, quello quello bacato, no, cioè, no, quello bacato, no, cioè che in realtà penso quello che appassionato, non lo so, non si riesce a esprimere un parere su tutti i collezionisti, no, però infatti, io penso che almeno una parte dell'istinto del collezionista, del desiderio di collezionista, del desiderio di arte del collezionista, quando non si tratta di un grosso investitore che lo fa solo perché come un investimento vale l'altro, insomma, al quale sconsiglio adesso di investire in arte, tra parentesi. Una parte di questo desiderio è, secondo me, è un desiderio legato al fare, cioè il collezionista vorrebbe forse fare, ma magari non ha tempo per fare, o vorrebbe essere coinvolto. Compra già fatto, ma compra già fatto, partecipa. Sai che ci sono anche delle storie di collezionisti che comunque hanno quasi una forma di adozione nei confronti di alcuni artisti, insomma, una forma di mecenatismo in qualche senso, però che non è solo, come dire, volto alla cultura o all'appendere o all'arredare la casa, non lo so, è anche proprio secondo me un modo di riuscire a stare dentro alla pratica artistica, dentro assieme a chi magari ci dedica più tempo di loro e quindi ha più strumenti per capire che cosa significa mettere insieme una serie di segni. Che cosa significa mettere insieme una serie di segni? Significa dare leggibilità a qualcosa, quindi non è semplice, perché io posso dare leggibilità comunque, a qualcosa. Cioè, non si riesce a mandare in vacca la chiave a pergola neanche, guarda. Di una lucidità. Ma veramente? Ti vuoi mandare in vacca? Non ti suggerisco cosa chiedermi. Effettivamente, ma anche che è facile. Non c'è, questo non ci avevo mai pensato, però anche il termine mandare in vacca comunque è maschilista anche lui, è incredibile. Certo, esatto. Invece. Mandiamo in toro questa trasmissione. Mandiamo in toro. Esatto. Però comunque mi ha interrotto. Sì. Come al solito. Da bravo maschilista. Da bravo maschilista, quindi tocca anche riprendere il filo, no? Che cosa significa mettere insieme? Significa dare leggibilità. Dare leggibilità a qualcosa vuol dire che una serie di disegni che noi ci troviamo di fronte a un certo punto riescono ad assumere un significato che non è solamente valido per noi, che però è una cosa che parte dalla tua lettura per un artista, però poi ci sono tanti passaggi successivi, perché se è solo tua non è linguaggio, quindi rimane chiusa all'interno del tuo studio, no? Invece poi ci sono tutte delle cose che vengono fatte fuori dallo studio, quindi lo studio è il momento, secondo me, in cui, almeno per me, il momento in cui cerco di capire come io propongo la leggibilità di una serie di cose, poi perché diventi reale c'è tutto il fuori. Today I saw a bird chasing a fly nearby the roses where shit hides. Today I saw a bird chasing by the roses where shit hides. All these days are shit and roses. All these days are shit and roses. All these days are shit and roses. All these days are shit and roses. All these days are shit and roses. All these days I saw a bird chasing a fly and roses nearby the roses where shit and roses. All these days are shit and all these days are shit and all these days are shit and all these days are shit and. Questi erano i fantastici Marzipan Marzipan con Shit and Roses e Coxo Spaziale vi saluta. Bene, vi ringrazio. È stato bello. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. For the mothers out there, remember the kids and the future. Appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 20, sempre su Radio Città Fujiko. Ciao. She barely past 13 and a flirt with man in the scheme. Belly skin and skinny jeans. Mommy, you know, see you have blighted her dreams. Face white with the bleaching cream. She love to be seen. She no longer a virgin. Mommy, you're not ready for the team. No. Why you send your little girl, ma? for in this world, mama. You send your little girl, mama. Poor little girl, yeah. She doing things, but it's no good. She's being abused and getting used. Drop out of school and think it's cool. No one to tell her she's being a fool. Mama, you make your daughter gone astray. You should be the one to show the brights away. You never did a try from a tender age. Now it's too late. Why you send your little girl, mom? She should be the best in all your world, mom. And why you send her in the street, mama? Ain't no sweet, mom. Why you send your little girl, mom? You should protect her in this world, mama. You send your little girl, having sex unprotected. She get caught all because mama, you make your daughter gone astray. You should be the one to show the bright away. You never did a try from a tender age. Now it's too late. Best in all your world, mom. And why you send her in the street, mama? Ain't no sweet, mom. Why you send your little girl, mom? You should protect her in this world, mama. You send your little girl, mom. Poor little girl. Why you send your little girl, mom? She should be the best in all your world, mom. And why you send her in the street, mama? Sweet mom, why you send your little girl, mom? You should protect her in this world, mama. You send your little girl, mom.